Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi apriamo il dossier che si occupa delle relazioni con la Russia. In questi giorni a Bruxelles è in corso il forum Boris Nemtsov, voluto dal miliardario russo anti-Cremlino Khodorkovskij. L'obiettivo dell'incontro internazionale è quello di creare un nuovo tipo di relazioni tra Russia e Unione Europea, a partire da un dato. Il 70% della popolazione è a favore del rapido ripristino delle relazioni con l'Europa. Un risultato, dicono, difficilmente raggiungibile a livello del Cremlino, interessato solo a prevenire un cambio di potere. Al contrario, a livello della società civile, la ripresa dei rapporti fra le due potenze è non solo possibile, ma di importanza cruciale. I nostri cittadini, hanno detto al forum, non vogliono questa posizione isolazionista e militarista da parte del governo. Ora, con il neo presidente Trump, ci sarà un cambiamento importante per l'Unione Europea e il rapporto con la Russia. Trump ha un atteggiamento più morbido che potrebbe avere ricadute sull'Unione Europea e questo andrebbe molto bene soprattutto all'Italia, che ha chiesto varie volte di rivedere le sanzioni verso la Russia. Ne parliamo con l'europarlamentare Stefano Maullu della delegazione con i rapporti tra UE e Russia, che saluto e al quale chiedo, da un punto di vista delle relazioni internazionali, cosa cambia per l'asse Europa-Russia con la vittoria di Trump? Beh, innanzitutto credo che ci sia un approccio decisamente più pragmatico e meno ideologico. Donald Trump ha dimostrato di voler cambiare rotta rispetto a ciò che Obama ha fatto negli ultimi 10 anni, con i risultati disastrosi che abbiamo potuto vedere sia in Medio Oriente sia in Europa, soprattutto nei rapporti tra la NATO e la Federazione Russa. La NATO, che è un'alleanza militare, si è allargata in una maniera, io credo, poco prudente, soprattutto per quello che è l'atteggiamento dei grandi paesi europei e in particolare quelli dell'est, che hanno sempre avuto un atteggiamento revanchistico nei confronti della Russia. E d'altro canto non ci si poteva che aspettare una reazione russa molto forte, così come è accaduto appunto in Ucraina e in Crimea, tenendo conto poi anche della capacità di intervento e del tempismo politico che la Russia ha messo in campo in Medio Oriente, creando non poche difficoltà allo Stato Islamico e avviando di fatto quella che è stata la rivincita dell'Occidente verso questo fenomeno che tanti problemi ci ha creato negli ultimi anni. Questo cambiamento di scenario potrebbe avere una ricaduta positiva per l'Italia, che ha chiesto più volte di rivedere le sanzioni verso la Russia? Ma io credo senz'altro di sì, soprattutto se si riuscirà a contenere questo atteggiamento spiccatamente germanico che ormai imperversa in Unione Europea e che spesso ha dato luogo a porzioni di ambiguità da parte della Germania. Da una parte si sono sollecitate le sanzioni, dall'altra parte si è potuto dire che il Nord Stream, il famoso gasdotto, doveva essere completato. Penso anche che da questo punto di vista l'Italia debba riacquistare centralità rispetto a questo storico ruolo tra Oriente e Occidente. Euzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.